spiegare quello che tu sei per me. Se il mio respiro al mattino quando vado via, chiudo la porta e lascio il cuore nella stanza lì con te. E sai perché? Me ne sento nostalgia senza di te. Questo tragitto che mi porta via da te, nasce un nuovo giorno e già l'alba, ma so che ci sei. Mentre dentro me sento un grande vuoto che mi affligge dentro, perché sei tu il mio momento, il mio sorriso, perché tu sei al centro. Sento questa passione che mi brucia dentro, perché sei tu il mio respiro, ogni attimo nell'infinito. Sento le nostre mani unite nel silenzio che non ha parole, perché sussurra solo frasi d'amore. Sento le nostre passeggiate di balmare con il tramonto che fa da cornice a questo amore senza fine. Sei come l'acqua che disseta la mia sete che ho di te, e la marea che travolge i pensieri miei. Tu sei una poesia mai scritta in questo libro nuovo che resta unico perché, è come un quadro che non sbiadisce mai, un ricordo indelebile di questo amore, sai. È così forte che non teme il vento che porta tutto via con sé, tranne noi, perché sento un pensiero fisso nella mente che mi parla di te anche quando non ci sei vicino. Sento mentre cammino vedo il tuo